c'è la B con la I, poi la U, la G, la I. Oh yeah. Gruppo crudo, funky groove. Che Gustavo si riposa facendo la sua cosa e facendo cellulosa. Lo sai, non è una posa, tu osa, sperimenta tutto tipo NASA. Chiuso nella casa con il funky che ti brasa. Gaza, sfasa, occupati e resistenti tipo Gaza. Un po' intifada, un po' incilada. E vada, come vedi, c'ho sto stile più che Prada. Presenzio, sentenzio, assenzio più che Praga. E progredisce questa saga che sbraga. Sbrega, slega, strega, rega, tregua. Tipo Sex Machine con la funk routine. E Belin Belin che sono evaso tipo Sing Sing. E sono il vaso di Pandora stile Ming. Lo sfidante nell'angolo del ring. Ringhio la Gattuso, toso, tu sei troppo tuso. Tuso, ritmiche magiche, classiche ed etniche, liriche mistiche, vibre catartiche, muovi le natiche. Noti che le note mie totemiche sono chiaramente ipnotiche. Tu temi queste musiche con cui ti sfondo, giocondo più di Mona Lisa nell'U. E goditi sto funky groove. Senti come groove quando è gruppo crudo. In the mood for the funky groove. Senti come groove quando è gruppo crudo. In the mood for the funky groove. Tu senti come groove quando è gruppo crudo. Senti come groove, viene pure crudo. Gustavo, Gustavo. Il gruppo crudo c'ha il suo credo e ti invita al vernissage. Ti fa gustare volentieri sto collage tipo bricolage. 30 secondi e vedi che ti sgamo già l'escamotage del sucker. L'entourage dello speaker è scosso come cocktail nello shaker. Siamo tutti tronfi, gonfi, peggio che spinnaker. Spini con la cream, tipo Ginger Baker. Fanno da peacekeeper, gioco da playmaker, fungo da pacemaker. Tanto per tradurre sono quello che dà il ritmo. Stile tipo Satchmo, gustati sta hit che s'adagia sopra il beatmo. Un bugi fancadelico, babelico, famelico di stipno funk che mo ti dedico. E vedi quanto è tonico, prima e dopo i pasti come dice il medico. Che dopo tutto il prezzo è modico, nodico. Senti come groove quando è gruppo crudo. In the mood for the funky groove. Senti come groove quando è gruppo crudo. In the mood for the funky, funky groove. Tu senti come groove quando è gruppo crudo. Funky, funky. Senti come groove, viene pure crudo. Gustavo. Con il sax di The Souza sul beat. Freesta frisco, free sound, underground.it. Da est a ovest, da nord a sud. Rubo ai ricchiapacchi stile Signor Hood. Come James Brown, I feel good. A modi Miller, I'm in the mood. Mo mood. Gustati Gustavo questo funky groove. Senti come groove quando è gruppo crudo.